Salva Danaio di Deborah Rosciani. Ben ritrovati a Salva Danaio, buongiorno da Deborah Rosciani. Nonostante il calo dei prezzi delle case, acquistare un immobile continua ad essere molto difficile in Italia per molte famiglie, soprattutto per quelle che non hanno a disposizione una consistente liquidità da mettere in campo, appunto qualora si abbia l'idea di fare questo acquisto, questo investimento, una liquidità chiaramente per anticipare un po' del prezzo che si dovrà pagare complessivamente su tutta l'abitazione. Per stimolare un mercato nel quale per alcune categorie di persone è molto difficile ottenere un mutuo, stanno però arrivando proposte nuove da parte di diversi istituti bancari. Anche le banche che avevano, possiamo proprio dirlo, quasi completamente abbassato la serranda del credito, ora pian piano la stanno rialzando. Tassi scontati, possibilità di sospendere le rate, finanziamenti concessi ai lavoratori precari, alle giovani coppie e addirittura elettrodomestici in omaggio. Salva Danaio oggi fa il punto della situazione per scoprire insieme agli ascoltatori il funzionamento di queste nuove formule. Naturalmente abbiamo interpellato proprio direttamente gli istituti di credito che si sono lanciati con queste iniziative. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Intanto raccontateci se siete alla ricerca di un mutuo, vi hanno detto sì, a quali condizioni, vi hanno detto no, per quale motivo appunto vi hanno negato il finanziamento per acquistare la casa dei vostri sogni. Noi commenteremo tutto questo stamattina con molti ospiti. Intanto Andrea Pennato, direttore commerciale di Mutui Online, che saluto, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a tutti. E poi appunto, come vi dicevo, abbiamo interpellato le banche, alcune di quelle che si sono appunto inventate delle modalità commerciali sicuramente innovative per attrarre nuova clientela e per riprendere ad erogare appunto finanziamenti per l'acquisto della casa. Saluto e ringrazio Massimo Macchitella, responsabile prodotti finanziari di Unicredit. Buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Piazza Cordusio ha lanciato di recente l'operazione, anzi la nuova gamma di mutui, Mutui Valore Italia. Ci faremo raccontare in che cosa consiste questo piano appunto per tornare a finanziare il settore immobiliare, tra virgolette, e poi ci collegheremo anche con il responsabile di Deutsche Bank, di Cariparma, e appunto abbiamo tante cose da raccontarvi questa mattina. Oltre al numero verde per interagire con noi, potete anche scriverci al 349-238-6666. Scriveteci anche all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, scriveteci su Facebook, scriveteci su Twitter, potete trovarci attraverso ogni canale. Adesso, prima di tutto questo, però, un'occhiata ai mercati finanziari. Borse deboli questa mattina, siamo in attesa ancora una volta del faro americano che arriva direttamente da Ben Bernanke, il numero uno della Banca Centrale Americana. Oggi pomeriggio, ora italiana, appunto parlerà alla Commissione Servizi Finanziari del Congresso e dovrebbe dare delle indicazioni un po' più precise sulla riduzione dello stimolo monetario all'economia statunitense. Nel frattempo l'Europa aspetta in calo, meno 0,57% a Parigi, meno 0,58% a Francoforte, Londra meno 0,53%, Madrid perde circa lo 0,8%, Milano meno 0,39%, segno più a Piazza Affari su Telecom Italia che guadagna 2 punti, Mediolanum più 1,56%, Popolare dell'Emilia Romagna più 0,89%, Salvatore Ferragamo più 0,8%. I cali più forti invece sulla Popolare di Milano che perde quasi 3 punti, Fiat dopo i dati sulle matricolazioni europee diffuse ieri, oggi per il Lingotto calo del 2,30%, Mediobanca meno 1,7%, Mediaset meno 1,7% dopo la corsa degli ultimi giorni, Monte dei Paschi oggi frena dell'1,48%. Si parlava nel giornale radio delle vicende di Fondiaria Assai, per la verità il gruppo a Piazza Affari adesso in rialzo dello 0,29%, l'arresto della famiglia Legresti e degli ex vertici appunto di Fondiaria Assai ha innescato solo per un paio di ore le vendite in borsa sulla compagnia assicurativa, ma ormai la famiglia appunto non è più legata al gruppo assicurativo, ma in ogni caso c'è stato un po' di timore di ripercussioni appunto negative sulla società quotata che oggi è integrata con Unipol, ripercussioni appunto dalle vicende giudiziarie che hanno avuto questa mattina questa evoluzione con gli ordini di arresto che sono arrivati appunto dalla procura di Torino. Direi che possiamo lasciare la borsa, andiamo subito al tema di oggi e parliamo di mutui. facciamo un punto della situazione con le offerte più interessanti che in questo momento circolano sul mercato. I prezzi scendono, le pretese dei venditori diminuiscono. Eppure, per chi ha bisogno di accendere un mutuo, comprare casa oggi in Italia resta un'impresa molto difficile. Il risultato è un mercato bloccato, che vede il valore degli immobili in discesa del 25% rispetto al 2008. Il numero delle compravendite in picchiata con un meno 14,2% nel solo primo trimestre di quest'anno e tempi medi di attesa per vendere una casa che nelle principali città della penisola superano gli 8 mesi. È difficile trovare un mutuo perché si è precari, perché si ha paura di non riuscire a sostenere le rate, perché le banche spesso non coprono più del 50% del valore dell'immobile e spesso il mutuo si rinuncia del tutto a cercarlo. Nel solo 2012 si è registrata una diminuzione dei prestiti del 37%. Per questo, dai principali istituti si sono viste arrivare negli ultimi mesi nuove formule e nuovi prodotti con cui si cerca di smuovere un po' la situazione. Ed è così che c'è chi sceglie di alleggerire le rate, offrendo tassi particolarmente convenienti, chi propone piani di rimborso flessibili con la possibilità di sospendere il pagamento per un certo numero di mesi. Ci sono i mutui che comprendono l'offerta di un elettrodomestico in omaggio e quelli pensati per i precari e per le giovani coppie. Tante, insomma, le formule da scoprire e confrontare tra loro, che aprono qualche porta di casa anche a chi ha un contratto atipico o non può contare su grandi liquidità, ma non per questo rinuncia ai suoi progetti di vita. il numero verde per le vostre domande. Il mutuo è sempre stato uno degli argomenti più gettonati tra i nostri ascoltatori, soprattutto quando venivano erogati con grande facilità o quando invece nell'autunno del 2008 soprattutto i mutui a tasso variabile erano diventati praticamente insostenibili per le famiglie perché i tassi interbancari avevano letteralmente spiccato il volo e in quel frangente, come ricorderete, abbiamo fatto tantissime trasmissioni dedicate alla rinegoziazione del mutuo o anche alla sua sospensione per quelle famiglie che non potevano più permettersi appunto la restituzione e il rimborso appunto mensile della rata. Oggi parliamo invece di altri argomenti, parliamo di un mercato immobiliare che è fermo in Italia in grande difficoltà, un po' perché chiaramente con la disoccupazione sempre più alta è molto difficile adesso impegnarsi su un progetto di questa portata all'interno di un nucleo familiare e un po' perché invece le banche con le loro difficoltà hanno chiuso i cordoni della borsa negli ultimi anni e di conseguenza appunto si è un po' fermato tutto il meccanismo. Adesso che cosa sta succedendo? Che invece molte banche, soprattutto quelle che questa serranda l'avevano abbassata, stanno decidendo appunto di rialzarla e di riprendere a erogare credito alle famiglie che vogliono comprare la casa dei propri sogni. Naturalmente non c'è più però la facilità degli anni passati, le condizioni sono per certi aspetti più favorevoli, per altri invece un po' più rigide. Facciamo un punto della situazione con i nostri ospiti. Allora comincerei con un osservatorio generale che è quello di Mutui Online. Andrea Pennato, direttore commerciale di questo broker che ospitiamo molto spesso perché ci dà uno spaccato molto reale appunto di questo fenomeno economico, quello del mutuo e della famiglia italiana. Intanto ci racconta un po' quali sono gli importi medi erogati, in che maniera oggi il sistema bancario accontenta la famiglia che vuole fare questo investimento. Allora, se parliamo di importi medi, diciamo che sono sicuramente in discesa, sia per quanto riguarda, almeno dal nostro osservatorio, sia per quanto riguarda l'importo medio richiesto che per quello, diciamo, concesso dal poi erogato dalle banche. Su questo tema i discorsi sono fondamentalmente due. Dall'osservatorio che noi vediamo la clientela, io la spezzerei in due parti. C'è chi ha una certa disponibilità di denaro, di risparmio, che però proprio per i problemi e per i dubbi sul futuro tende a chiedere l'importo massimo possibile, quindi fondamentalmente circa sempre l'80% del valore dell'immobile. Per tenersi questo accantonamento, insomma, da una parte mantiene questo risparmio e quindi chiede di più in banca perché. Esatto, chiede di più in banca, poi spesso chiede e in banca invece tendono a dirgli invece di chiedere un po' meno e di mantenere insomma la rata un po' più bassa. C'è invece sempre per i timori del periodo, una clientela invece dove magari, che magari ha meno disponibilità di reddito, che invece tende a chiedere il porto minimo possibile per tenere la rata più bassa. In questo caso tenta di farsi aiutare soprattutto dalla famiglia, e quindi di farsi aiutare in questa maniera. Benissimo, questo quindi è lo spaccato per quello che riguarda, diciamo così, la società, la platea dei possibili richiedenti mutui. L'importo medio erogato, vedo il vostro ultimo bollettino nel primo semestre del 2013, è stato di 126.452 euro. Devo dire che però tutto sommato rispetto agli ultimi anni la tendenza è stata sempre abbastanza simile, Pennato, perché anche nel momento di più grande difficoltà, per esempio secondo semestre del 2011, vedo addirittura l'importo medio erogato era arrivato a 135.000 euro, quasi 136.000, che era addirittura superiore appunto ai momenti più favorevoli appunto del panorama del credito. Sì, diciamo che il nostro spaccato per quanto riguarda l'online, poi abbiamo anche una rete territoriale dove le cose sono un po' diverse, cioè dove vediamo cose un po' diverse, non ha subito diciamo il picco più basso in quel semestre. Anzi, noi in realtà in quel semestre siamo, diciamo, il nostro osservatorio, comunque la nostra clientela è comunque ancora avuto accesso fino alla fine forse del 2011 di condizioni abbastanza buone, per esempio sul fatto che venendo online magari la richiesta arriva un po' prima nel tempo e noi cerchiamo di far mantenere le condizioni che il cliente ha visto anche successivamente. Sì, poi l'importo medio fondamentalmente non è calato tantissimo, io mi aspetto in realtà dai numeri che abbiamo che calerà molto nel secondo semestre invece 2013. Ah, ecco, come stiamo vedendo. Molto di quanto? Perché il picco minimo dell'ultimo decennio è stato toccato proprio in concomitanza di quella fase critica che ricordavo prima, 2008, autunno 2008, quindi 122.000 quasi euro medi. Sì, credo che arriveremo più o meno a quei livelli. A quei livelli lì, sì. Adesso, proprio ripeto, per i motivi che dicevo prima, le banche tendono a concedere un pochettino meno rispetto a quello che viene richiesto per prudenza anche da parte delle banche, e quindi stiamo vedendo che in proiezione, poi come dicevo, noi abbiamo una visibilità qualche mese prima, proprio perché i clienti vengono da noi per informarsi e poi chiudono dopo N mesi. Ecco qua, allora questa è un po' la situazione per quello che riguarda mutui online, anche perché poi tra l'altro dicevamo prima i prezzi delle case scendono, ma non è che siano scesi poi così tanto come è accaduto in altre zone d'Europa. Chiaramente la Spagna soprattutto ha avuto a che fare con una crisi fondamentalmente immobiliare e là chiaramente i prezzi sono crollati, qua noi abbiamo avuto problemi diversi di natura economica per cui i prezzi delle case per la verità hanno avuto una discesa, ma una discesa che è stata molto più rigida rispetto appunto ad altre località europee come stavo dicendo poco fa. Allora andiamo a Massimo Macchitella. Unicredit li abbiamo chiamati perché proprio poche settimane fa l'istituto di Piazza Cordusio ha lanciato questa operazione che si chiama Mutuo Valore Italia, e lei Macchitella lo sa benissimo che quando io prima parlavo di banche che hanno abbassato a lungo la serranda del credito per le famiglie, sa benissimo che mi riferivo anche a voi, perché tra i grandi istituti di credito sicuramente tra quelli che hanno di più tirato i remi in barca ci siete stati voi. Adesso magari mi dirà che non è vero, però in realtà un po' più di difficoltà ad accontentare le famiglie a caccia di mutuo appunto per la casa, poca disponibilità appunto ce l'avete avuta negli ultimi anni. Adesso invece vi rilanciate con questa grande operazione. In che cosa consiste, Macchitella, se ce la può raccontare, appunto, e che opportunità state dando adesso alle famiglie italiane? Allora, riguardo alle serie cinesche, su cui ovviamente non è questo il punto della giornata, riscontriamo ovviamente una contrazione diciamo dell'erogato. Diciamo che non abbiamo mai cessato di erogare mutui, non abbiamo mai chiuso la serie cinesca, non abbiamo spinto, diciamo così, ecco, come stiamo facendo adesso. Quindi questo è il concetto, la situazione di mercato era quella che era, difficoltà di liquidità, contesto di rischio più elevato, per cui i nostri clienti hanno sempre avuto, diciamo, non è stato mai rifiutato nulla secondo i criteri ordinari. Non abbiamo spinto, diciamo, in maniera come invece vogliamo fare adesso, cioè dare un supporto al rilancio di questo mercato. L'occasione, come diceva lei, è questo nuovo prodotto, questa nuova famiglia. Ma mi chiedo, sì, adesso glielo faccio raccontare a Macchitella, ma perché ripartire adesso con un tasso di disoccupazione che, cioè io per carità sono molto contenta di questa vostra disponibilità, perché questo momento in cui comunque, anzi, la disoccupazione è sempre più alta, i posti di lavoro mancano, per cui tutto sommato in realtà si ampliano le difficoltà delle famiglie poi a poter rispettare in prospettiva un impegno di questo tipo, come mai proprio adesso? Questo è vero, e infatti una risposta ce l'abbiamo proprio nella struttura del prodotto. Secondo me bisogna, non è che adesso questa l'occasione, ma noi abbiamo fatto anche un importante accordo con diversi costruttori, i nostri clienti, anche per rilanciare per un altro verso questa cosa, perché altrimenti non si capisce mai se viene prima l'uovo o la gallina. È vero, come diceva, il contesto economico è pesante, le costruzioni, il mercato immobiliare hanno un peso fondamentale. Le banche ovviamente il fatto che di non erogare mutui, come non erogare credito, è un elemento, diciamo, che non le fa rischiare in termini generali, ma riduce il volume d'affari e quindi si ritorce contro se stesse, per cui voglio dire non è una politica di medio-lungo periodo, per cui bisogna fare un primo passo. Naturalmente come farlo questo passo? Questo mutuo ha in sé delle caratteristiche di modularità e di flessibilità che servono proprio per cercare di fare in modo che la famiglia possa affrontare in un contesto che è decisamente più incerto del passato, in maniera strutturale, è proprio quello che diceva lei, per cui fare un mutuo come si faceva una volta classico, che una volta fatto finiva l'operazione perché poi bisognava o si pagava o non si pagava, non è più possibile, quindi bisogna fornire, diciamo, alla famiglia, darle quel, perché è mancato anche, lei l'ha accennato prima, anche le richieste si sono ridotte, perché un progetto di vita così articolato, così pesante, non si fa alla leggera. Proprio perché una famiglia equilibrata teme che poi non possa far fronte ai propri impegni. Allora, dare la possibilità di fronteggiare una serie di problematiche relative a temporanee diciamo, situazioni di riduzione del reddito, relativa a strutturale riduzione del reddito, ad eventi che colpiscono la famiglia, eccetera, serve a fare in modo che uno si possa indebitare, certo con maggiore apprensione del passato, ma sapendo che dispone anche di strumenti che prima non poteva utilizzare. Quindi puntate fondamentalmente sulla flessibilità, se c'è bisogno date l'opportunità alla famiglia appunto di ridurre temporaneamente la rata o di spostarla in avanti o di tagliarla addirittura appunto per un massimo appunto di 12 mesi. Quanto costa che sottoscrive un mutuo di questo tipo questa flessibilità? Questa flessibilità a seconda delle combinazioni, perché il mutuo è modulare, quindi uno può scegliere, diciamo, i moduli che gli interessano. Questa flessibilità nello specifico, cioè quella che lei ha citato, di tagliare la rata, di spostarla e via dicendo, costa 50 centesimi sul prezzo del mutuo. Quindi, 50 diciamo centesimi ogni quanto? Mensili, annuali? 5 in base annua. Quindi diciamo è un costo aggiuntivo della versione del mutuo che ha questo tipo di opzionalità, nella quale il cliente ha la possibilità di effettuare, diciamo, questo tipo di scelte, che sono tre, può anche ridurre in maniera strutturale la rata, no? Quindi allungando il piano d'ammortamento. La cosa importante è che il cliente ha un'opzione, diciamo, ha un diritto di farlo, cioè non deve chiedere, la banca lo deve concedere. Certo, eccetera. Quindi non c'è un'istruttoria particolarmente complicata qualora appunto una famiglia si presenti da voi, ma avendo già la possibilità di esercitare questa facoltà. Certo, naturalmente augurandoci che non ci sia bisogno appunto di esercitarla. Le volevo chiedere, ecco, qual è l'importo massimo? Per esempio, io ho la casa dei miei sogni, costa 200.000 euro, appunto, qual è l'importo massimo che la banca è in grado di erogarmi se voglio sottoscrivere questo mutuo valore Italia più? Allora, anche riagganciandoci a quello che dicevamo prima, no? Sulle medie che si sono ridotte e via dicendo, allora il mutuo è sempre concedibile fino all'80%, sappiamo tutti, e lo diceva prima anche Pennato, che negli ultimi mesi, ultimi 2-3 anni, le banche, per motivi prudenziali, perché ci si attendeva una riduzione del valore degli immobili, hanno ridotto quello che si chiama il loan to value, cioè la percentuale. Certo. Allora, tra le cose che noi vogliamo anche fare allo scopo di rilanciare il mercato è anche quello di ricominciare a tendere verso l'80%. Quindi naturalmente il principio fondamentale è sempre la sostenibilità della rata, perché una cosa che occorre evitare è il sovraindebitamento della famiglia. Quindi queste flessibilità di cui parlavamo servono per affrontare situazioni improvvise, situazioni inattese di gestione, non per sovraindebitare, per evitare di ricadere, insomma, quindi, in una se ce l'andiamo proprio a cercare indebitandoci fino a sopra al collo, ecco. Benissimo, allora intanto abbiamo sentito dunque questa prima proposta, che è quella di Unicredit. Le faccio sentire, devo andare in pausa per la verità già, però c'è una domanda proprio per Piazza Cordusio da parte di un ascoltatore, gliela faccio fare molto rapidamente. Luca, poi rispondiamo nella seconda parte di Salvadanaio. Ci dica buongiorno, rapidissimo. Buongiorno. Io la chiamo da Modena, ho 47 anni. Io vorrei fare una casa in bioedilizia, quindi nella zona di Modena. Mi sono rivolto a una filiale Unicredit della zona e hanno difficoltà a finanziare questo tipo di costruzione. Luca, chissà che nel nuovo pacchetto appunto non ci sia anche l'opportunità per dare modo alle famiglie di vivere in ambienti appunto di questo tipo. Siamo ritornati in diretta, oggi stiamo facendo un giro per sportelli bancari per capire quali sono le novità a proposito di offerta di mutui immobiliari. Abbiamo sentito appunto l'iniziativa lanciata da Unicredit, Mutuo Valore Italia, loro la chiamano una risposta concreta alle famiglie, un mutuo che punta soprattutto sulla flessibilità, come per la verità succede anche in casa di altri istituti di credito. Adesso ne parleremo, però c'era una domanda per Massimo Macchitella, che poi deve lasciarci, responsabile dei prodotti finanziari di Unicredit. C'era un ascoltatore, dottor Macchitella, che chiedeva: ma io sono andato in banca, sto facendo questo investimento, una casa come dire di tipo nella bioedilizia, quindi di natura molto ecosostenibile, adesso io non so bene con che caratteristiche questa casa la stia appunto predisponendo il nostro Luca da Modena, ma un'iniziativa di un investimento di questo tipo la banca non lo finanzia? Io non ho capito esattamente che tipo di investimento l'ascoltatore sta realizzando, cioè, mi sembrava di aver capito un immobile in costruzione. Esattamente, non ho costo, esattamente. Allora, credo che la stia facendo lui, quindi non è una casa bella e pronta. Ecco, che quindi è una casa in economia. Allora, il problema di questa, diciamo, è più che altro tecnico, si può finanziare tutto, ma ovviamente il tema è che... diciamo, non ci può andare un perito che stabilisce quant'è il valore di quella casa. Deve andare un perito, deve vedere sostanzialmente, cioè, quindi il costo diventa il valore complessivo, diventa oneroso anche per il cliente perché si applicano le stesse tecniche che si applica a una casa, diciamo, di ben più ampia metratura che viene realizzata da un costruttore. Quindi è finanziabile, non è finanziabile con operazioni standard naturalmente, però si può trovare la modalità di farlo. Certo. È una cosa un po' sartoriale, diciamo, non è un'operazione. Luca, ci scriva e magari vediamo se sono disponibili appunto a prenderla in considerazione. Va bene, volevo aggiungere altro, ma Chitella poi la salutiamo. Sì, solo una rettifica, perché una volta tanto, insomma, un lapsus freudiano, ho detto 50 centesimi, il modulo flessibilità invece è 30. Come, mi scusi? No, me lo ribadisce? Non ho capito. Lei mi ha chiesto quanto costava il modulo flessibilità, io le ho detto 50 centesimi, invece 30 centesimi, quindi l'avevo guardi, lo so che lei deve, un minuto però me lo deve spiegare. Allora, io prendo 150.000 euro di mutuo per finanziare la mia abitazione, che ammettiamo ne vale 250, quindi ci stiamo dentro nei parametri. Arrivo a pagare, adesso non so, ammettiamo di doverlo fare per 20 anni, ammettiamo che arrivi ad una rata di 700 euro al mese, adesso non abbiamo stabilito né se il tasso è fisso, variabile, eccetera. Dove vengono applicati questi 30 centesimi? Sulla rata, nel senso che il tasso, quindi lo spread, aumenta, diciamo, questo è il flessibilità, comprende anche il modulo relazione ed altre cose, di 30 centesimi rispetto a quello che abbiamo concordato. Lei c'è un tasso del 2,80 per dire, questo tasso del 3,10. Del 3,10. E questo praticamente è un piccolo pagamento mensile che mi consente di avere la massima flessibilità qualora io avessi bisogno di sospendere o di rinviare appunto il pagamento di una rata. Quindi questo sostituisce praticamente l'assicurazione sul mutuo, Macchitella? No, l'assicurazione sul mutuo copre un'altra cosa, copre o la perdita del posto di lavoro, quindi in quel caso c'è una copertura integrale della rata, cioè il cliente non la paga la rata, la Costituzione la situazione subentra, oppure il caso in cui uno perde la vita, insomma, in quel caso la situazione copre il debito, quindi quella copertura è una copertura di natura diversa. Perfetto, Macchitella, io per adesso la ringrazio. Noi intanto stamattina abbiamo lanciato queste novità, poi così diamo l'opportunità ai nostri ascoltatori di venirne a conoscenza, e quindi andatevi a fare una chiacchierata in più sportelli bancari, perché sappiate che adesso il settore si sta movimentando. Macchitella, grazie, buona giornata. Grazie a presto. Lei, grazie a tutti gli ascoltatori, buona giornata. Nel frattempo ci siamo collegati con Carmine e Paolo Antonio, responsabile marketing retail di Cariparma Credit Agricole. Buongiorno. Buongiorno a lei. Eccoci qua. Perché sicuramente anche voi avete fatto un po' di rumore con la vostra proposta commerciale lanciata di recente. Avete messo a disposizione delle famiglie italiane 2,5 miliardi di euro per i mutui appunto casa, ma soprattutto avete fatto questa proposta abbastanza originale: per chi sottoscrive un mutuo c'è anche un elettrodomestico in regalo. Ma perché bisogna passare attraverso queste iniziative per attirare clientela? Non bastano operazioni molto banali del tipo essere molto trasparenti con la clientela, tasso chiaro, questo è quello che tu devi pagare, oppure magari fare uno sconto sul, che ne so, la visita del periodo per fare la stima dell'abitazione? Non si poteva fare qualcosa di più tranquillo? Perché proprio l'elettrodomestico in regalo, Paolo Antonio? Bella domanda, no, è anche una bella risposta. In realtà, allora, io vorrei un attimo puntualizzare. La nostra proposta di mutuo essenzialmente ha un'offerta economica molto importante, perché viene incontro ai clienti soprattutto nei primi 2 anni, che sono gli anni di stabilità economica, soprattutto per le nuove famiglie. Tant'è vero che noi proponiamo un tasso finito per i primi 24 mesi al 2,50. Mm. La proposta del frigorifero ha un valore, se vogliamo, un valore simbolico, e nello stesso tempo in chiave marketing ha come obiettivo quello di attirare in un mercato che è, dove le offerte sono tante, di segnalare un elemento di distintività rispetto a quello che oggi tutte le banche in qualche modo offrono. Il valore simbolico sta essenzialmente nel fatto che richiamiamo un po' gli anni 50, 60, un po' della ripartenza. Ah, ecco. L'obiettivo è in questa chiave simbolica. Intanto l'avete pensata proprio in maniera super sofisticata, insomma. Allora. Sì, però il fatto che sia nell'opinione pubblica abbia concentrato l'attenzione sul frigorifero, se mi permette, è stata, come dire, centrata, perché in realtà quando segnalano la nostra offerta viene segnalata l'offerta col frigorifero. E certo, ma l'importante è che se ne parli, come si dice in questi casi, no? Però insomma, no, esatto. Ma io, per carità, adesso l'ho voluta un po' provocare, poi ogni banca fa quello che vuole, l'importante è che conservi un rapporto di totale trasparenza con la clientela, certo. E soprattutto che venga in conto. Quante richieste avete avuto fino a questo momento? Non dei frigoriferi, dico, ma appunto di mutui. Sta ripartendo un po' questo settore, che importi vi chiedono i clienti, Paolo Antonio? Allora, sì, i primi segnali sono incoraggianti. L'offerta, ricordo, è partita a metà di giugno, quindi considerando anche i tempi tecnici. Devo dire che l'elemento importante è che i nostri clienti si stanno avvicinando non tanto per il frigorifero, che può sembrare l'elemento più significativo, quanto essenzialmente per la proposta dei primi 2 anni, dove il tasso è veramente molto molto molto... Cosa vuol dire scontato? Mi fa un esempio. Scontato rispetto a che cosa? All'IRS, che è il parametro che si appunto prende 2,50, a riferimento? Esatto, se guardiamo solo la nostra proposta commerciale, il 2,50 finito dei primi 2 anni rappresenta il 60% in meno rispetto a quello che è quello che poi il cliente pagherà a partire dal 25° mese. No, non sono riuscita a capire, perché non capisco scontato rispetto a che cosa. Allora, ammettendo che io rifaccio l'esempio che ho fatto col suo collega precedente, una casa che vale 250.000 euro, io ne prendo 150.000 per 20 anni. Ok. Da che tasso partiamo? 2,50 finito, i primi 24 mesi è un 2,50 finito, quindi non ha nessun parametrizzazione, è come se fosse un tasso normale, il tasso certo. È 2,50. Effettivamente questo è stracompetitivo, Paolo Antonio, Sì. Ma potevate fare leva su questo piuttosto che sul frigorifero? ma facciamo su entrambe, la leva del frigorifero è una leva emozionale. E che ha come obiettivo quello di attirare l'attenzione. Il vero valore, e c'è su tutti i manifesti, nella nostra comunicazione, nei modi della trasparenza, è il 2,50 finito per i primi 24 mesi. Non è che quando al terzo anno riprendiamo i pagamenti regolari ce la fate scontare tutta in quel momento, no? Questo sconto che ci avete fatto all'inizio. Assolutamente no. Noi tra l'altro l'IRS lo fissiamo all'atto della stipula, ecco, i corsi attuali per il cliente è decisamente conveniente. Devo dire che sì, anche se sono chiaramente sempre più alti i tassi fissi su quelli variabili, soprattutto in questo momento, adesso comunque già il fisso è straconveniente, proprio perché i tassi sono bassi, esatto. A livello come dire, che non, al quale probabilmente non ritorneranno mai più. Allora non ci fermiamo adesso, ho una domanda anche per lei, Paolo Antonio, poi andiamo a Patrizia Zambianchi di Deutsche Bank Italia, però volevo così farle fare un po' da consulente ad un ascoltatore che ha un'esigenza, vediamo che cosa gli possiamo consigliare. Oscar dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno Deborah, e buongiorno a tutti i suoi ospiti. Ci dica. Senta, una domanda semplicissima. Io ho acquistato casa nel 2007, quindi ho già un mutuo. Giustamente mi si è allargata la famiglia perché mi è nata la bambina. Ottimo. E ho esigenze di acquistare una casa nuova. Perché devo rifare il mutuo di sana pianta? Io avevo dei tassi Euribor carissimo, ma spread della banca molto vantaggioso. Oggi troverei l'inverso, Euribor molto basso, spread della banca altissimo, quindi vado a pagare il doppio per lo stesso valore. Quindi lei vorrebbe praticamente acquistare una casa nuova e trasferire con essa il mutuo vecchio. Non so se sia un'operazione possibile. Paolo Antonio, ci dà un consiglio per il nostro ascoltatore? Allora, sì. Possiamo dire che tendenzialmente le offerte, se l'ascoltatore gira un po' sulle varie banche, oggi esistono delle offerte che sono comunque, considerando anche gli spread abbastanza convenienti più o meno che ci sono in giro, poi bisognerebbe capire bene da qual è lo spread da cui il cliente parte, eccetera eccetera. Però c'è un tema tecnico al di là di tutto, prima che economico, che c'è l'ipoteca iscritta su un altro immobile e quindi di conseguenza non è possibile spostare l'ipoteca da un immobile ad un altro, completamente diverso. Però partendo da quello che è il prezzo iniziale, quindi il costo che il cliente sta pagando oggi, in giro per le banche si può verificare, se mi permette, se passa presso una delle nostre filiali, certamente può verificare, se può trovare delle condizioni vantaggiose, esatto, magari esatto, con anche un bel frigorifero. Oscar, visto che lei, un bel frigorifero, che lei è cresciuta, esatto, la famiglia, adesso più che mai necessario. Paolo Antonio, grazie per essere stato con noi, le auguro buona giornata. Andrea Pennato, Mutui Online, lei ha un suggerimento da dare a Oscar? Perché magari insomma c'è anche questo mercato che è quello di ricambio, le famiglie per fortuna continuano a crescere e c'è chi ha bisogno di ampliare appunto l'abitazione, quindi sceglierne un'altra più grande. È così difficile trasferire il vecchio mutuo? No, è impossibile proprio. Pennato. Allora, sì. Tecnicamente è impossibile, nel senso, dal punto di vista anche legale, non si può, l'ipoteca non è trasferibile da un immobile all'altro, quindi purtroppo non si può fare. Concordo abbastanza su quello che diceva Paolo Antoni, sul tema di, in questo momento le offerte rispetto al 2007, quando Oscar ha fatto il primo mutuo, non sono molto diverse, nel senso, sommando lo spread. Sì, esatto. Lui dice si sono invertiti i parametri, prima era più conveniente, esatto, l'utile, però adesso ecco, sommandoli. Sommandoli non è cambiato molto. Il rischio, ovviamente, se si sceglie soprattutto, ma se ho capito il tasso era variabile, che Oscar ha visto in questi anni la rata scendere. Perché l'Euribor ha continuato a scendere, lo spread, lui avrà avuto uno spread. Esatto, poi anche sulla base di quello che è successo qualche anno fa, adesso i mutui sono diventati anche più facili da rinegoziare, sostituire, surrogare, per cui magari adesso lo spread che andrà a scegliere è più alto di quello che già aveva, ma magari in prospettiva, qualora diventasse un po' troppo alto, questo mutuo lo può sempre rinegoziare o scegliere un'altra banca, però purtroppo, diciamo, purtroppo deve azzerare l'operazione, quindi chiudere il primo. L'importante è questa, secondo me. Il tema importante è che adesso il mutuo, ma come dicevano anche i colleghi, non si prende adesso per sempre, ma c'è proprio la possibilità di rinegoziarlo, di surrogarlo, eccetera. Quindi certo. Ovviamente se uno deve cambiare casa, come nel caso di Oscar, per un lieto evento, comunque l'operazione va fatta. Ecco, ripeto, sul tema complessivo, il variabile, il rischio di prendere un variabile adesso è che l'Euribor salga, certamente, mentre lo spread rimane comunque alto. Guardi, su questo tema tanti suggerimenti da darci anche Patrizia Zambianchi di Deutsche Bank. Adesso però le chiedo un minuto di pazienza sia a Patrizia Zambianchi che ad Andrea Pennato, perché abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi anche altri ascoltatori pronti ad intervenire. Eccoci qua, l'ultima parte di Salva Danaio. Oggi siamo ritornati sul nostro grande cavallo di battaglia, i mutui, tema che non affrontavamo da un po'. Abbiamo deciso di rifarlo perché c'è stato un grande fermento nel settore bancario, con molti istituti di credito che si sono lanciati anche in grandi operazioni di natura commerciale, di marketing, appunto per riproporre alla famiglia il mutuo per l'acquisto della propria casa. Allora, ci sono molti ascoltatori che ci contestano il tema affrontato, per esempio con Cari Parma, c'era Alessandro da Modena che dice, insomma, attenzione perché ci sono molti soldi da tirar fuori per l'assicurazione sul mutuo. Alessandro parla addirittura di qualcosa come 18.000 euro, bisogna vedere chiaramente l'importo complessivo del finanziamento chiesto, ma magari questo è un tema sul quale torneremo. Adesso ci stiamo limitando al mutuo per la prima casa, a patto che sia naturalmente anche una cifra non altissima come quelle che eravamo abituati a vedere qualche anno fa. Patrizia Zambianchi, Deutsche Bank Italia, ancora buongiorno. Il vostro si chiama Mutuo Concreto, Mutuo Pratico, anzi no, vabbè, comunque sempre è un sinonimo, quindi insomma il concetto sempre lo stesso. A voi come sta andando, insomma, perché il vostro è un gruppo che sicuramente non ha fatto parlare di sé per essere stato particolarmente rigido negli ultimi anni. Voi dite: noi abbiamo continuato sempre ad erogare, ad accontentare quante più famiglie possibile. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori. Allora, è vero, Deutsche Bank non ha fatto grandi campagne di marketing, non si è esposta molto sui media, ma ha continuato ad erogare con un trend tendenzialmente in crescita anno su anno, quindi a garanzia dell'impegno della banca nei confronti del mercato italiano. Non abbiamo anche in questo momento campagne con particolari oggetti in regalo, noi siamo, come prima citavi, concreti, e infatti in questo momento stiamo orientandoci molto più che altro sulla flessibilità dell'offerta. Noi puntiamo molto ai mutui non con un piano di ammortamento unico, quindi non solo fisso, non solo variabile, ma quello che per noi è il variabile per eccellenza, che è il mutuo a tasso misto. Prima citavate la dinamica dei tassi, è vero, oggi c'è l'Euribor ai minimi storici degli ultimi 10 anni, quando un tasso arriva a questo livello evidentemente non può che riprendere a crescere. Certo, poi magari non lo farà in maniera repentina come nel 2008, però gradualmente no, è la però dobbiamo ricordarci che l'Euribor nel 2008 ha toccato il 5,23, ma chi è meno giovane si ricorda anche che nel 2000 ha toccato quello stesso livello, quindi la ciclicità dei tassi ci dimostra che prima o poi, da qui la vita media di un mutuo è 25 anni, dobbiamo essere preparati a quello che ci accadrà non solo nel 2015 ma anche nel 2025, ancorché ci sia la possibilità poi di rinegoziare, trovare nuove soluzioni nel medio-lungo periodo o quant'altro. E per il motivo per cui noi in questo momento tendiamo a proporre mutui a tasso misto, in cui il cliente più prudente si copre nella prima parte del mutuo con il tasso fisso, in modo tale da garantirsi nel periodo in cui gli interessi vengono rimborsati in misura maggiore, vincolarsi e tenersi lontano dai rischi di oscillazione. Dall'altro invece, nella seconda parte, quando ormai gli interessi sono stati quasi tutti pagati e quindi il rischio di oscillazione della rata è decisamente più contenuto, lasciarlo andare su un variabile, quindi in questo modo contenere il costo della rata. Senta, dottoressa Zambianchi, chiaramente anche a lei farò ascoltare una domanda di un ascoltatore, quindi ci darà anche la sua consulenza. Ecco, c'è un altro, prima di sentire, abbiamo pronti Leonardo d'Arezzo e Paolo da Roma, però ce n'era un altro che mi interessava, che appunto ci scrive: rinegoziare mutui non è sempre possibile, quando mancano meno di 10 anni non la fanno più la rinegoziazione le banche, ma io direi che è anche abbastanza scontato. Arriva un punto in cui nel mutuo non si pagano più gli interessi, per cui viene rimborsata solo la quota capitale, e lì la banca che tipo di rinegoziazione può fare? Non è che al limite può allungare un po' se la famiglia è in difficoltà. Zambianchi. Sono assolutamente d'accordo. In realtà, se i nostri clienti guardassero il piano d'ammortamento, si renderebbero conto che superata la metà di durata del mutuo, quindi ipotizziamo un mutuo a 30 anni, dopo i primi 15... I tassi sono già tutti pagati. Esatto, la grossa parte, il 75% circa dell'interesse è stato pagato, quindi in realtà per il cliente c'è soltanto il rimborso del capitale. Rinegoziarlo ha poco senso anche per il cliente, non ne avrebbe alcun tipo di vantaggio. Così come probabilmente gli interessa poco andarlo a surrogare o addirittura andarlo a destinare anticipatamente. Benissimo, andiamo invece adesso ad un'altra fascia di popolazione alla quale siamo molto affezionati e a loro dedichiamo anche tantissime puntate dei nostri martedì del lavoro, i lavoratori appunto a tempo determinato, i contratti flessibili soprattutto in entrata, i precari, chiamiamoli così, o quantomeno Paolo li definisce atipici. Paolo, buongiorno e ci dica tutto. Buongiorno. Sì. In onda, sì. Sì. Sì, salve. Allora, senta, io praticamente lavoro ininterrottamente dal 2005 con contratti atipici che si rinnovano da anno in anno. Ho cambiato 3-4 aziende e lavoro ininterrottamente con l'ultima da 2 anni. Cioè, diciamo, in passato ho fatto richiesta di mutuo alla mia banca online. Sì. Paolo, la sentiamo molto male. Abbiamo capito comunque qual è il concetto, perché qua in un paese in cui i contratti flessibili vengono appunto sposati come proprio filosofia da parte del governo, in realtà poi si va in banca e, come al solito, Patrizia Zambianchi, in realtà lì allo sportello ci dicono no. Voi come state messi da questo punto di vista? In realtà noi una posizione lavorativa come quella descritta dal radioascoltatore in questo momento la valutiamo con serenità, in quanto il signore ha dichiarato che lavora con un contratto a tempo determinato rinnovato dal 2005, quindi direi che ha 8 anni di esperienza alle spalle e sono decisamente validi per valutare quelle che sono le sue capacità prospettiche di trovare nuovamente lavoro nel momento in cui il contratto in essere cesserà. Diverso è l'argomento quando si tratta di persone estremamente giovani in cui la loro esperienza dimostra che non hanno la stessa identica capacità di mantenere nel tempo il rinnovo dei contratti. Le banche ormai sono consapevoli del fatto che in Italia il contratto atipico, il contratto a tempo determinato è una realtà e quindi come tale la gestiscono. Certo, anche perché sarebbero inutili poi tutte queste, adesso a parte Deutsche Bank, ma anche iniziative commerciali delle quali abbiamo parlato all'inizio. Bene, sì, fare tante cose interessanti, l'elettrodomestico oppure appunto la grande flessibilità nel rimborso della rata, ma se poi non si aiuta una famiglia che ha uno standard ormai fisso, quello di avere un posto a tempo determinato all'interno del proprio nucleo familiare, insomma non serve a niente tutto questo. Io purtroppo siamo già verso la chiusura, forse abbiamo un minuto e mezzo di tempo. Dottoressa Zampianchi, 30 secondi di tempo per lei per un consiglio alle famiglie che magari domattina hanno in programma di andare in banca a discutere con il direttore per l'erogazione di un mutuo. Allora, innanzitutto chiedono immediatamente di avere il tasso effettivo globale e controllino e lo confrontino, quindi non si limitino a chiedere lo spread, ma controllino quali sono le spese di istruttori che vengono richieste, le spese di perizia. Si ricordino che l'assicurazione non è obbligatoria, è una grossa opportunità, soprattutto quella che garantisce il pagamento della rata del mutuo in caso avvenga qualche incidente di percorso, ma non è obbligatorio e deve avere un prezzo coerente con la loro situazione, con le loro capacità, e confrontino. Certo. E si facciano soprattutto appunto alla luce della prospettiva che abbiamo dato prima, i tassi riprenderanno a salire, fatevi fare una bella come dire, un bel prospetto di come potrebbe modificarsi appunto, se scegliete soprattutto il mutuo a tasso variabile, la vostra rata appunto negli anni a venire. Grazie ad Andrea Pennato, Patrizia Zambianchi, Carmine Paolo Antonio e Massimo Macchitella per essere stati con noi. Salva Danaio torna domani. A tutti buona giornata.